se il Movimento 5 Stelle dovesse essere coerente ai principi che si è dato, e forse col principio fondante più importante della sua storia, cioè quello della negazione dell'immunità parlamentare e dell'intoccabilità dei potenti, dovrebbe concedere l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini. Io penso che però il Movimento 5 Stelle abbia già perso in qualche modo questa sua virginità, l'ha persa nel momento in cui ha deciso di sostenere un'alleanza, un contratto di governo, come dicono loro, con un partito che di fatto è stato commissariato dai tribunali per via dei suoi bilanci truccati e per via dei famosi 40 milioni di euro spariti. Quindi non credo si faranno questi problemi. Tra l'altro anche importanti giuristi, penso all'intervista di Flick oggi in Corriere della Sera, sostengono che la questione è fortemente politica, e dall'entourage sgrillino viene fuori che una delle motivazioni per negare l'autorizzazione a procedere potrebbe essere appunto il fatto che la scelta di non far sbarcare i migranti e di lasciarli a bordo della Diciotti era una scelta politica condivisa da tutta la squadra di governo, e quindi non imputabile soltanto a Matteo Salvini. Tutta la vicenda a me pare che ci dica come la parola onestà è un significante vuoto, come dicono quelli che studiano il populismo e il linguaggio del populismo, cioè una parola che torna utile e viene riempita di contenuti quando è necessario, ma che non è un imperativo assoluto, non è un monolite. Credo che ne verranno fuori in questo modo, e penso di poter dire con una certa certezza, con una certa sicurezza, che la base non si farà grandi scrupoli a sostenere la scelta di difendere Matteo Salvini. Se da una parte, appunto, come dicevi, insomma, una verginità già persa, quella sul fronte dell'onestà dei 5 Stelle, che quindi forse non avranno così tanto interesse a preservare, diciamo, dall'altra parte però nell'ultimo periodo c'è avuta anche l'impressione che ci fossero tensioni sempre più forti tra le due compagini di governo, diciamo, senza considerare che c'è sempre stata comunque una parte del Movimento 5 Stelle che in qualche modo ha rinnegato la politica di estrema chiusura verso i migranti, penso a Fico per esempio. È possibile che questo elemento possa spaccare un po' anche i 5 Stelle all'interno? Io non penso che il dissenso della sostanza sulla questione dell'immigrazione è stato molto limitato tra gli eletti, ed ancor meno per quello che possiamo osservare tra la base, tanto che i pochi eletti che hanno espresso dissenso rispetto alle scelte di seguire la Lega sul suo terreno della xenofobo sono stati attaccati duramente dalla base come traditori. Ci sono due aspetti che contano da questo punto di vista. Il primo è la capacità di mettere a valore queste differenze, e quindi di fare in modo che diventano quasi una forma autoassolutoria i mal di pancia di alcuni. E il secondo, ben più pericoloso per chi trova a sinistra secondo me, è il fatto di utilizzare queste concessioni alla Lega come contropartita per strappare alcune cose come il no alla TAV o il no alle trivelle, che ci proiettano dentro una dinamica infernale, perché per fermare la TAV bisogna far morire la gente in mare. Questo diventa un gioco al massacro, insomma, una roba. E però è quello che di fatto stanno facendo. Lo scambio tra pacchetto sicurezza e reddito di cittadinanza, con tutti i limiti del provvedimento sul reddito di cittadinanza, in fondo rappresenta questo. D'altro canto dobbiamo anche osservare che in questi primi 6 mesi di governo giallo-bruno, giallo-verde, come si voglia chiamare, le mobilitazioni più forti di dissenso, al di là dei grillini, questo dico, nella società italiana, sono arrivate esattamente sul tema dei migranti e dell'antirazzismo. E anche ieri Landini, appena eletto al vertice della CGIL, ha ritirato fuori il tema dell'antirazzismo, per cui questo è sicuramente un tema delicato, però non mi sembra che dentro il Movimento 5 Stelle ci sia un elemento decisivo di frizione, anche rispetto a questa indagine della Procura di Catania. Potrebbe anche essere un'occasione per cercare una soluzione, diciamo, nel senso ricominciare da capo con quello che probabilmente farebbe saltare il governo se effettivamente il Senato autorizzasse a procedere, però dall'altra parte appunto potrebbe essere un nuovo inizio per i 5 Stelle anche in un momento in cui ci si avvicina alla campagna elettorale che iniziamo già a sentire verso le europee, però dici comunque è una decisione che non prenderanno. Ma mi sembra che l'uscita di oggi di Di Maio sui porti e sull'ONG e sull'invito alla Sistorm di andare a sbarcare a Marsiglia, le uscite degli ultimi giorni cui è stata tirata fuori con una certa abilità la storia del colonialismo francese, per non parlare delle responsabilità degli italiani, sia storiche che attuali, nei confronti del popolo africano, mi sembra che ci dicano che non mi sembra che ci siano grandi tumulti di coscienza da quelle parti. Secondo me, prima delle elezioni europee, una rottura non avverrà. Dentro la campagna elettorale ci possono essere distinguo, Di Battista pungola un po' la Lega, però le dichiarazioni degli ultimi giorni attorno a questo tema mi sembrano tutte abbastanza in linea con l'idea di sostenere un'alleanza con la Lega, con proprie argomentazioni, però insomma mi sembra che tutto si regga, non mi sembra che ci siano grandi smottamenti da questo punto di vista. Un'ultima domanda, che è appunto sul rapporto proprio tra Movimento 5 Stelle e giustizia, cioè in generale siamo arrivati a un punto di rottura definitivo. Sicuramente non è, il Movimento 5 Stelle non è il partito dei giudici, è il partito del giustizialismo, ma non è il partito dei giudici, non è il partito che più volte nel corso di questi mesi si sono verificate momenti di dialettica tra magistrati e grillini, e oggi in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario il presidente della Cassazione ha fatto un discorso che in maniera felpata e diplomatica evidentemente ha criticato il pacchetto sicurezza e il decreto anticorruzione, cioè i due pilastri della politica giustizialista di questo governo, dicendo che non servono delle misure tampone episodiche che non facciano parte di una riforma a tutto tondo, e che queste singole misure che puntano solamente ad alzare le pene o inasprire alcune regole servono solamente, sono misure elettorali in qualche modo, non servono solamente ad aizzare l'emozione pubblica, e quindi è un'ulteriore conferma che il rapporto tra la magistratura e il Movimento 5 Stelle non è tutto rose e fiori. Non siamo di fronte al partito dei giudici, insomma, questo non era scontato all'inizio di questo governo.